Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento come sempre con i nostri amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi saluto Gioia Barbato che è con noi, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, proprio l'altro giorno leggevo sui giornali il fatto che su 10 macchine nuove acquistate ce ne sono più del doppio quasi che vengono comprate usate e questo è un argomento che oggi tocchiamo con l'Adico. Esatto. Sì, in realtà è un argomento molto comune, noi abbiamo avuto moltissime segnalazioni in associazione di utenti che hanno comprato un'autovettura o nuova usata e dopo appena pochi chilometri si sono ritrovati con dei vizi notevoli al motore. Mm. In particolare quest'ultimo consumatore che si è rivolto a noi, che aveva acquistato un'auto anche di una marca molto nota, una BMW, e dopo appena 80.000 chilometri la catena di distribuzione del motore si è rotta in maniera irreparabile. Pertanto il consumatore ha dapprima tentato un approccio bonario con il rivenditore chiedendo una sostituzione dei prodotti come, sì, della parte difettosa, come poi prevede anche il codice del consumo. Poi ad una risposta negativa da parte del rivenditore si è rivolto ad Adico e noi tramite la nostra azione siamo riusciti ad ottenere il ricambio del pezzo difettoso senza alcun onere di spesa. Ecco, quindi una vicenda che si è conclusa molto positivamente. Ecco, come funziona? Se io compro una macchina usata, il rivenditore può darmi la garanzia, deve darmela oppure non è prevista? Allora, qualsiasi auto nuova una prescrizione del codice del consumo, del consumo ha 2 anni di garanzia. Quindi nel caso in cui nei primi 2 anni di acquisto vengano ravvisati dei vizi notevoli al motore o insomma una qualsiasi parte del bene, è possibile chiedere o la sostituzione del prodotto quando il danno è ingente e sarebbe difficile porvi rimedio con una semplice sostituzione delle parti difettose, oppure una semplice sostituzione della parte difettosa senza alcun onere di spesa. Ecco, quindi queste sono le 2 richieste che io posso rivolgere al venditore. Questo quando è nuovo, ma se lo compro usato? Beh, ugualmente io ho sempre diritto ad avere una garanzia, perché comunque la persona, che sia privato, che sia un concessionario, quindi un esercizio commerciale che mi vende un bene, ha il dovere di rilasciarmi una garanzia. Ah, ho capito, quindi è giusto andare a informarsi, richiedere se ci sono questi vizi subito dopo aver comprato la macchina o anche dopo un determinato periodo di tempo, è giusto avvalersi della garanzia anche se il bene è usato, questo certo, è importante. Ecco, altrimenti anche perché è una dimostrazione di buona fede e anche di trasparenza nel rapporto contrattuale, far vedere che insomma c'è un periodo di garanzia e comunque che c'è la disponibilità di chi ha venduto il bene a venire incontro insomma con una sostituzione o comunque con la riparazione del prodotto. Ecco, capita anche che ci siano come dire dei ritocchi sul contachilometri certe volte, no? Sì, esatto, ma poi lì allora si sfora in sede penale, perché addirittura nel caso in cui ci sia un ritocco, diciamo così, fraudolento, una manomissione fraudolenta nel contachilometri, in quel caso là si può addirittura agire per frode contrattuale e quindi in quel caso ci spostiamo in sede penale e quindi è del tutto legittimo una denuncia dei carabinieri e poi il proseguo per la via penale, certo, oltre che la strada civile. Ho capito, quindi insomma è bene cercare di far valere i propri diritti, magari se non si trova l'accordo in maniera bonaria, proprio rivolgendosi all'Adico che una mano ve la dà. Amici di Blu Radio Veneto, ricordiamo allora il sito dell'Adico. Sì, allora il sito è www.associazionedifesaconsumatori.it. Ecco, e quindi lì poi ci sono i contatti, i numeri di telefono, quando siete aperti, anche voi non siete praticamente mai andati in ferie. Quindi... Esatto, siamo sempre aperti in qualsiasi momento. Va bene, grazie a Gioia Barbato di Adico, che ci ritroviamo fra un paio di giorni. Grazie a te, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.